9 in punto, la versione di Oscar. Of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 28 maggio, una settimana all'inizio. Una settimana all'inizio che ci regala, ohimè, con amarezza i vertici della Chiesa Cattolica, che sembrano praticamente non troppo dissimili da un qualunque partito politico per la durezza delle polemiche alle quali assistiamo, in ordine al fatto che vi sarebbero partiti interni e fazioni interne su chi amministra cosa, chi risana cosa. Lo IOR, la Banca del Vaticano, dopo tanti anni scopriamo che ancora una volta è in preda, dopo che ci avevano promesso che aveva regolarizzato tutte le sue partite internazionali che lo rendevano sospetto per il riciclaggio di fondi non commendevoli, e che ancora una volta è in preda a un vero e proprio scontro tra fazioni intorno a come aderire alle procedure di compliance internazionali, a come se risanare prima che finisse a rotelli il San Raffaele a Milano, eccetera eccetera eccetera. Io devo dirvi che mi fa una certa impressione vedere intorno al Papa lotte di potere, corvi, lettere anonime, corrispondenze private che diventano occasione di scontro pubblico terribile come neanche ai vecchi tempi della corrente della Democrazia Cristiana. Evidentemente. C'è poco da fare. Le questioni del potere e prepotere laico, quando non camminano su gambe di lunga visione e su cuori alti, si riducono a questo. E questo avviene tanto nella politica laica del nostro paese, quanto, ed è ancora più amaro, ci crediate o meno, nell'aldilà, se avviene poi ai vertici della Chiesa. Perché dico tutto questo? Perché la questione dei denari, di come si amministrano, delle procedure che si seguono, della trasparenza con cui si seguono, è una delle questioni di fondo irrisolte nel nostro paese, è uno degli errori di fondo della politica economica di continuità in questi 20 anni sostenuta dal governo di destra, dal governo di sinistra, purtroppo confermata anche dai governi di centro. Leggiamo oggi, per esempio, ieri sui siti dei giornali, in molti hanno sperato quando erano rilanciate le parole di Piero Giarda sulla spending review, che dicevano 100 miliardi di spesa pubblica, e tutti mi dicevano: vedi Giannino, ci siamo finalmente, sono quei 6-7 punti di PIL di cui ci parli sempre. Io ho detto: guardate, lì sta dicendovi 100 miliardi da passare al setaccio per poi farne 4 se va bene, se ci si riesce, per evitare l'aumento dell'IVA, ecco. Ed è sempre così, questa asimmetria totale tra ciò che lo Stato riesce a malapena, diluendo, dilatando, rinviando, a mettere nel proprio mirino, rispetto invece alla durezza, all'immediatezza con la quale chiede a noi di fare fronte al più di doveri aggiuntivi. In questo quadro di diluizione delle responsabilità pubbliche e di indurimento invece dei doveri privati, rientra perfettamente, a mio giudizio, la questione aperta, riaperta per meglio dire, dagli scandali Lusi nella Margherita e Belsito nella Lega. Sto parlando dei miliardi che vanno negli anni finalizzati al rimborso elettorale dei partiti politici. È notissima la polemica di chi ha ragione, sostiene che la volontà degli italiani è puntualmente aggirata in questo come sul canone Rai, perché ricordate che un referendum li aveva aboliti, abbiamo reintrodotto sotto forma di rimborsi elettorali i contributi pubblici. C'è chi, unico il Movimento 5 Stelle, li rifiuta. Sta di fatto che dei miliardi ottenuti degli oltre 2 quasi 3 miliardi di euro ottenuti per rimborso elettorale alle elezioni politiche nazionali, regionali ed europee dal partito della Seconda Repubblica a essere stati rendicontati, e poco più di un quarto di questa somma. E a distanza di mesi oramai dall'esplosione delle vicende che hanno riguardato i tesorieri della Margherita e della Lega, con la piena conferma dell'assoluta discrezionalità nella movimentazione, nell'allocazione di milioni di euro, nel fatto che poi i segretari di partiti politici esistenti o terminati ma persistenti in vita per raccogliere contributi come la Margherita sostengono puntualmente di non sapere niente, eccetera eccetera eccetera, dovremmo essere arrivati al punto della riforma. E però su questa riforma, su cui si è capito fino a questo momento assai poco, oggi tentiamo di capire da tre voci di protagonisti in Parlamento come stanno davvero le cose, perché io francamente, da quello che ho capito, sono molto molto critico e scettico, però per una volta preferisco far parlare chi è a diretto contatto con la materia in commissione ed è in grado di raccontarci che cosa sta avvenendo, così ciascuno si fa una sua opinione. Intanto voi telefonate per dirci se lo vorreste abolire o diminuire di metà o di tre quarti e disciplinare a quali tipi di nuovi doveri per i partiti politici questo tema delicato del rimborso elettorale. Allora cominciamo a farci raccontare come stanno le cose, innanzitutto da Maurizio Turco, che è deputato dei radicali eletto nel file del Partito Democratico e che è uno dei critici più duri, tanto che si è fatto richiamare all'ordine, insomma, con una certa durezza per le opinioni dissenzienti che stava esponendo. Buongiorno e grazie a Maurizio Turco. Ci sente? So parlare, no? Nel senso che in tutti questi giorni tutti hanno parlato di quello che è accaduto, perché del merito, diciamo, i protagonisti della, esatto, battaglia parlamentare, esatto, quindi davvero grazie. Ecco, e insieme a lei abbiamo in questa prima parte della trasmissione Salvatore Vassallo, deputato del PD. Lo abbiamo chiamato perché ha pubblicato sull'Unità una lettera critica spiegando perché non ho votato questa legge. Buongiorno e grazie, onorevole Salvatore Vassallo. Buongiorno, grazie. Allora, Turco, tenti di spiegare, prima di emettere il giudizio, i punti di merito su cui questo provvedimento sta avanzando e poi ci dice perché non è d'accordo. Allora, se mi consente davvero in un minuto, partirei dal fatto che noi da un anno stavamo lavorando in commissione sull'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, a distanza di 65 anni da quando la Costituzione era stata promulgata, dibattito nel quale era inserito anche i rimborsi elettorali, diciamo così, e il finanziamento pubblico. Ricordiamo che quello è l'articolo nel quale è inattuato, cioè i partiti restano associazioni private, non c'è alcuna garanzia attualmente disposta per legge su cose tipo la loro democrazia interna, eccetera, eccetera. Perfetto. Improvvisamente Alfano, Bersani e Casini decidono che bisogna dare una risposta alla piazza e quindi lo slogan è: dimezziamo i finanziamenti pubblici. Diciamo che è mancata un po' di informazione, perché probabilmente diversi dei deputati che sono attualmente alla Camera e che hanno votato per il dimezzamento sono esattamente gli stessi che hanno votato per decuplicare quelli che erano i rimborsi elettorali originari, cioè quelli del 93. Vabbè, magari hanno cambiato idea, ci si può pure redimere. Magari hanno cambiato idea, però c'è un problema di fondo, che se non capiamo qual è la funzione dei partiti politici è ben diverso, è ben difficile fare altri discorsi. Con questo voglio dire, come ho detto in aula, che ancor prima del finanziamento pubblico il costo insopportabile per il paese di questi partiti è l'occupazione dello Stato. Ho fatto gli esempi: Eni, Finmeccanica, Rai, le municipalizzate, spesso costruite unicamente per avere dei posti dove allocare nei consigli di amministrazione persone di partito. Allora, se noi non partiamo dall'inizio, cioè dalle fondamenta di questo discorso, risulta difficile fare qualsiasi ragionamento. E comunque, per entrare nel merito della questione, secondo me c'è una questione dirimente che abbiamo posto nella proposta di legge, che avevamo già depositato nel 2006, che abbiamo ridepositato e che abbiamo cercato di difendere in aula, e che anche il Presidente della Corte dei Conti ha ritenuto essere costituzionalmente fondata, e cioè che i controlli li devono fare la Corte dei Conti. Noi abbiamo sentito in aula parlamentari sostenere che la nuova commissione che hanno inventato, mista di magistrati vari, ha più poteri di quelli che ha la Corte dei Conti, quindi è stato fatto un passo avanti. Ci si dimentica di dire che se la Corte dei Conti oggi non ha i poteri necessari è perché gliel'ha negati il Parlamento nel 93, ed è dal 93 che la Corte dei Conti in ogni referto sulle spese elettorali sottolinea le carenze di legge, ma le carenze di legge non sono una distrazione, sono un programma politico di questi partiti. Allora, o ripartiamo dal ragionamento sulla funzione dei partiti politici, sull'organizzazione dei partiti politici, e li inseriamo nel discorso di uno Stato democratico e quindi della partecipazione dei cittadini e non dell'organizzazione e della difesa di piccole oligarchie che decidono tutto, da chi sono i parlamentari a chi sono i membri dei vari consigli di amministrazione, altrimenti continueremo a fare, diciamo così, i soliti errori. Nel 74 il finanziamento pubblico ai partiti è stato introdotto perché ci fu il grande scandalo dell'Italcasse. Nel 93 avemmo modo di dimostrare come dal 74 al 93 gli scandali non si erano affatto fermati a seguito dell'adozione del finanziamento pubblico. Quindi il 90,3% dei cittadini decisero di abolirlo. I partiti subito dopo, già a dicembre del 93, decisero di introdurre i rimborsi elettorali, che di per sé non sono una cosa così, impossibile da introdurre, solo che i rimborsi elettorali introdotti in Italia sono i rimborsi all'italiana, cioè non sono il corrispettivo di una spesa effettuata, ma ci sono stati partiti che hanno preso 1.000-2.000 volte quello che avevano speso in campagna elettorale. Tra parentesi, siamo gli unici che abbiamo i radicali, il partito radicale, le liste radicali sono state le uniche dal 93 ad oggi che tutte le spese elettorali che hanno effettuato sono state superiori a quelli che sono stati i rimborsi elettorali, documentati dalla Corte dei Conti. E che io penso che ci sono anche dei comportamenti che fanno da cartina di tornasole dei discorsi. No, certo, è per fortuna, nel senso che se non fosse possibile desumere un giudizio anche dai comportamenti sarebbe un mondo in cui tutto è opaco, per così dire. Esatto, non è sufficiente dire siamo certo contro i finanziamenti. No, bisogna andare poi esserlo e dimostrarlo di esserlo stato. Quindi, in sintesi, la posizione di Turco è: qui ci allontaniamo da un discorso generale, articolo 49, partiti, loro impostazione, cosa devono fare, cosa non devono fare, quindi gli si dà i soldi praticamente a maglie larghissime, come si potrà poi eccepire se li utilizzano propri e impropri. Anche sui controlli non ci siamo per niente, perché qui ci si inventa una commissione ad hoc invece che aggirare il controllo esercitato dalla Corte dei Conti. Allora, sentiamo Salvatore Vassallo rispetto a questo testo. Io ricordo tutti il progetto comune PDL-PD rispetto alle altre proposte di legge che erano depositate in Parlamento e quello che è noto come Calderisi-Bressa, insomma, ed è frutto del precipitato del confronto riservato tra PD e PDL. Rispetto a quel testo, le critiche dell'onorevole Vassallo del PD quali sono? Ma dunque, intanto questo articolo che lei ha citato arriva alla fine di una posizione che io ho cercato di tenere da settimane, se non da mesi, prima in commissione e poi in aula, peraltro sempre riportando posizioni che il mio stesso partito ha depositato dentro progetti di legge a prima firma del segretario, che il segretario ha esposto in diverse conferenze stampa, ma i cui elementi essenziali, a mio avviso, si sono poi persi in questo accordo fatto con il PDL, di cui non riesco ancora a capire le ragioni. E perché la mia opinione è che il finanziamento pubblico, perché è chiaro, è stata fatta un'operazione sensata, quella di dimezzare rispetto al livello inusitato che i contributi pubblici avevano raggiunto nel 2010, però al tempo stesso è stato rilegittimato il finanziamento pubblico, anzi dicendo esplicitamente in questo caso che non si tratta di rimborsi fasulli come erano con la legge del 99, ma di un vero e proprio finanziamento pubblico ordinario della vita dei partiti. Ora, per fare questa operazione sarebbe stato necessario, nel contesto in cui è stata fatta, un rigore molto superiore a quello che è contenuto nella legge. Innanzitutto perché lei dice si potranno fare controlli, ma forse non è chiaro che i controlli potranno essere ancora solamente formali, cioè di regolarità formale dei rendiconti. La famosa commissione, per quanto si suppone sia autorevole, potrà solo certificare che le pezze d'appoggio, diciamo così, contabili corrispondono a quanto è stato fatto. Ma cioè, adesso ancora... io su questo, mi perdoni perché io non ho premesso, a me pare così composta e così generalmente indicata come suoi poteri in larghissima misura una presa per i fondelli. Do un giudizio sintetico e tranciante, però può essere che voi abbiate ragione a dire che qualcosa può fare. Però... No, ma io non sono tanto convinto. Quello che stavo dicendo è che questa commissione, nonostante la commissione, sarà ancora legalmente possibile usare i soldi pubblici per attività che non hanno niente a che fare con la politica. Ah, non avevo capito, perché la commissione non può in alcun modo sindacare su qual è la destinazione della spesa, ed è una cosa che è stata deliberata, per dire, la legge tedesca che si dice di aver preso a modello. C'è una frasetta cruciale che dice: i soldi dei partiti, non solo quelli pubblici ma anche quelli che raccolgono attraverso i privati, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle che questa legge, la legge tedesca, decide e che sono in qualche modo indicate dalla Costituzione. È stato deliberatamente scelto, nel caso della legge italiana, di escludere un vincolo di destinazione ai soldi, proprio per evitare che, perché si è detto, i giudici potranno mica poi sindacare se una spesa è congruente o meno con le finalità politiche. Quindi i controlli ci saranno, ma saranno di pura regolarità formale dei bilanci, non potranno discriminare tra spese fatte per la politica o spese fatte per acquistare gioielli o che so io, titoli di studio taroccati. La seconda questione è che il controllo, appunto, è sottratto all'organismo che nel nostro ordinamento avrebbe titolo per svolgerlo, che è la Corte dei Conti. Secondo me, facendo un'operazione sbagliata anche da un punto di vista simbolico, cioè dando l'idea che si voglia per i partiti costituire un organismo ad hoc che è insediato presso la Camera dei Deputati, che personalmente l'ho anche detto in aula, mi pare sia il posto sbagliato, cioè bisognava rendere evidente che il controllo viene effettuato distante dalle stanze della politica. Poi ci sono anche ragioni di funzionalità su cui forse adesso non siamo in condizione di approfondire e di efficacia di questo organismo, perché sarebbe sensato che fosse assistito da funzionari che sono esercitati a svolgere questa funzione di controllo e non dai pur bravissimi dipendenti della Camera dei Deputati. E infine c'è il problema che... Perché diciamolo a tutti, pur bravissimi dipendenti della Camera dei Deputati, i funzionari di commissione fanno carriera e avanzamento interno nell'assegnazione alla commissione appoggiati ai partiti e alla politica. E anche qui non ci prendiamo per i fondelli, perché l'articolo 97 della Costituzione, so che i miei amici o tanti amici funzionari della Camera e del Senato insorgerebbero dicendo che naturalmente questo è qualunquismo, ma la realtà che io ho conosciuto nei decenni è assolutamente questa. Quindi si fa carriera appoggiati a... i capigruppo dei partiti politici, è inutile che diciamo di no. Beh, questo devo dirlo francamente, io sono sempre molto critico e non mi faccio veli. Forse ai piani alti, questo è vero, molti funzionari sono persone di grande qualità con uguale dedizione presidente di commissione di destra o di sinistra, però certo non sono addestrati a fare i controlli di regolarità dei rendiconti, ecco, questo è sicuro, e di sicuro avrebbero un po' di imbarazzo, diciamo, a dover fare attività istruttoria al cui termine si dovessero scoprire delle magagne nella gestione dei fondi pubblici dei partiti. Quindi questo è il secondo problema, e l'altro è che si è voluto deliberatamente di invertire l'ordine logico, per dire, tutte le leggi serie sul finanziamento pubblico dei partiti antepongono alla decisione, alla scelta di conferire soldi pubblici ai partiti, la definizione di quale sia la ragione per la quale questi soldi vengono dati, quindi le funzioni di rilievo pubblico che i partiti svolgono, in ragione delle quali gli si danno dei soldi, e anche le caratteristiche che questi partiti devono avere, perché non è una questione da giure con insulti, quella per cui si dice bisognava prima affrontare l'articolo 49, perché l'articolo 49 dice i partiti nel nostro sistema sono importanti in quanto sono il canale attraverso cui i cittadini liberamente concorrono alla determinazione della politica nazionale, ma se questi partiti non sono in grado di offrire l'opportunità di concorrere liberamente con metodo democratico, perché bisogna finanziarli? Quindi bisognava porre a condizione del finanziamento che i partiti avessero statuti minimamente democratici. Tanto per dirne una legge del 2000 pone a condizione per il finanziamento o per qualsiasi tipo di agevolazione pubblica verso le associazioni di promozione sociale, cioè le associazioni di volontariato, l'AVIS, l'ARCI, certo, eccetera, che abbiano uno statuto con una serie di requisiti abbastanza ben dettagliati. E ora, naturalmente niente di simile invece per i partiti. No, quindi noi siamo al paradosso per cui se l'ARCI o l'AVIS vogliono ottenere qualche forma di sostegno pubblico devono garantire ed essere associazioni con uno statuto democratico, certo, però devono i partiti avere una specifica personalità giuridica, e per i partiti invece no, sulla base dell'assunto che non si può consentire che poi per mai un giudice possa interferire nella vita democratica, con l'effetto però che i soldi, anziché essere dati per la partecipazione, rischiano di essere dati a oligarchie che non devono dare conto a nessuno. Posso sapere dall'onorevole Vassallo che reazioni ci sono state innanzitutto nei due gruppi parlamentari del suo partito alla Camera e al Senato alle critiche che ha esposto, che ci ha appena sintetizzato? Guardi, io come le ripeto, ho esposto queste critiche in maniera molto ferma, coerente e spero rigorosa, ma sempre riproducendo posizioni che il PD ha preso ufficialmente in suoi... No, erano nella disegno di legge Bressani, quindi non le possono dire che è fuori linea, però che cosa le dicono adesso di fronte al testo Bressa-Calderisi? Che sono forse critiche un po' esagerate, che il testo va bene così e che una parte di questi problemi verranno riparati con l'approvazione della legge in attuazione dell'articolo 49, che naturalmente attendo fiducioso sia esaminata e approvata. Onorevole Turco, ci crede lei a questo timing per cui intanto i partiti si mettono a posto i denari e poi però si discute in termini generali dell'articolo 49? Se no, loro hanno pregiudicato, a mio avviso, il dibattito sull'articolo 49, cioè hanno già prefigurato qual è il modello di partito, è il solito, quello dell'occupazione e della rapina dello Stato, cioè è chiarissimo. Noi lo vedremo nel 49, quando dovremmo discutere capacità del partito di sottrarsi dalla vita, come dire, amministrativa, nel senso dall'entrare in diretta concorrenza, diciamo, con i manager nella gestione delle società con capitale pubblico. È lì che è quella la cartina di tornasole, cioè diciamo pure che il finanziamento pubblico è la punta di un iceberg. No, quella più evidente, certo, ma quella più pesante di una concezione così del ruolo della politica, certo, all'interno della società, certo. Allora, dopo la pubblicità in cui andiamo adesso, onorevole Calderisi invece per il PDL, mi aspetto che debba difendere l'impostazione dopo che abbiamo sentito dal radicale Turco e da Vassallo del PD delle critiche che spero siano arrivate chiare anche a chi non conosce il testo di cui si sta discutendo. Eccoci qui, siamo tornati in studio, stiamo parlando del iter parlamentare del disegno di legge, del progetto di legge Calderisi-Bressa, quindi PDL-PD, che interviene sulla materia dei rimborsi elettorali del finanziamento dei partiti dopo i casi Margherita, Lusi e Belsito. Lega, abbiamo sentito una prima parte della trasmissione le critiche dell'onorevole Turco radicale e di Salvatore Vassallo del Partito Democratico in ordine al fatto che non si disciplinano prima i partiti, le loro finalità, e non si sottopone la vita interna dei partiti possibilità di spendere questi rimborsi elettorali, che pur scendono della metà, e quindi i partiti però restano liberi di allocarli come meglio credono, il regime dei controlli è affidato a una commissione, per così dire, che non è quella della Corte dei Conti, ma un organo di controllo presso la Camera, i cui rischi di addomesticamento alla politica e ai partiti appaiono molto elevati. E con noi adesso l'onorevole Giuseppe Calderisi del PDL, lo ringrazio, lo saluto e chiedo da lui invece la difesa, o meno, le obiezioni, le risposte a queste critiche che abbiamo già sentito nella prima parte della trasmissione. Che ci dice Calterisi? È un buon progetto comunque da difendere? Si può ancora cambiare? Ma io credo che non si tratti di una buona riforma, di una riforma seria e rigorosa. Viene dimezzato l'ammontare complessivo dei contributi pubblici a favore dei partiti, non solo per il futuro ma anche per quest'anno, come è noto. Non solo, viene introdotto un sistema misto pubblico-privato, un po' sul modello tedesco ma con qualche differenza, per cui solo il 70% di questi 91 milioni anziché 182 viene elargito, erogato a titolo di rimborso delle spese elettorali e per l'attività politica, che viene tolta l'ipocrisia della precedente normativa che aveva aumentato a dismisura i contributi per i rimborsi elettorali oltre quelle che sono le spese sostenute dai partiti per le elezioni medesime. Questo va detto con molta chiarezza. E il 30% invece dei contributi viene erogato a titolo di cofinanziamento, cioè come partecipazione dello Stato all'autofinanziamento anche dei partiti. Qui c'è un primo aspetto di molto importante a mio avviso, cioè per ogni euro raccolto dai partiti come autofinanziamento con le quote di tesseramento innanzitutto e con le contributi privati, lo Stato darà 50 centesimi, entro sempre dei tetti che dipendono dall'ammontare dei voti presi dai partiti e dall'ammontare che ho detto prima di questi 91 milioni, 70 per rimborsi delle spese elettorali, 30 per cofinanziamento. Quindi c'è un incentivo ai partiti a non vivere solo di contributi pubblici ma di autofinanziarsi, di mantenere un legame con la società e con i cittadini, e questo è importante. Questo elemento si aggiunge poi l'aumento delle detrazioni per le contribuzioni liberali dal 19 al 26%, anche qui si vuole dare un incentivo, viene abbassato l'ammontare complessivo dei contributi per cui scatta la detrazione, non più 100.000 euro ma 10.000 euro come tetto massimo, per cui si vuole allargare la platea e anche qui spingere i partiti a percorrere questa strada. Sappiamo che in Italia, diversamente dall'America, non c'è questa cultura della anche trasparenza da parte degli interessi economici, dei produttori, delle imprese, di finanziare la politica. In America, lo sappiamo, è un meccanismo chiaro, trasparente, e in Italia non è così. In Italia non solo i partiti, ma purtroppo un po' tutto è assistito dallo Stato, i patronati, i sindacati, l'editoria, la cultura, il cinema. E quindi bisogna tener conto di un dato culturale molto diverso da quello, per esempio, appunto che abbiamo in America, ma nonostante questo la legge vuole tentare, almeno un tentativo, di far decollare, di far partire, sia pure in questa situazione di crisi profonda, di scarsa legittimazione del sistema politico, vuol tentare di indicare la retta via che i partiti devono percorrere, quella dell'autofinanziamento. Ripeto, molto difficile, perché una volta i partiti distribuivano risorse e avevano il consenso attraverso questa strada, oggi devono togliere, sottrarre risorse e quindi la crisi dipende della legittimazione dei partiti, dipende anche da questo, non solo da questo. La strada è difficile, ma ciò non di meno, diciamo, il progetto di legge ha voluto tracciare questo sistema misto e invogliare i partiti a cercare i propri finanziamenti anche dai privati. Poi c'è il sistema dei controlli. Qui non sono affatto d'accordo con i giudizi che sono stati dati da Turco, da Vassallo, perché viene prevista una commissione composta da 5 magistrati che non sono nominati in sede domestica, sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti, 3 magistrati, esattamente come la sezione della Corte dei Conti sarebbe stata composta da 3 magistrati. E perché anche allora perdone, 3 magistrati della Corte dei Conti? Perdoni, perché non prendere una sezione e inventarsene un'altra? Allora, è molto semplice. Innanzitutto perché la Corte dei Conti svolge un controllo di legittimità che riguarda la pubblica amministrazione. I partiti non sono assimilabili tout court alla pubblica amministrazione, anche se ricevono, anche se qui la ragione del controllo è una contribuzione pubblica. Qui siamo di fronte a dei partiti di cui non vengono controllati soltanto i contributi pubblici, ma tutta l'attività dei partiti, tutto il bilancio annuale dei partiti, anche per quanto riguarda la contribuzione privata. Quindi bisogna tenere conto che è diverso il problema e che ai partiti certamente devono utilizzare il denaro per i fini dell'attività politica e non per altri fini, come abbiamo visto, ahimè, negli scandali recenti. Però bisogna stare attenti a non a salvaguardare l'autonomia politica dei partiti, perché se un partito decide di fare, dico per dire una cosa qualunque, dei convegni, dei seminari piuttosto che degli spot, dei manifesti piuttosto che non so cos'altro, e questo fa parte della libertà e dell'autonomia delle scelte dei partiti, e non bisogna pensare che un organismo possa, diciamo, esterno possa in qualche modo invece sindacare su scelte di questo tipo. Quindi sono comunque tre magistrati della Corte dei Conti, come sarebbero stati tre magistrati della Corte dei Conti in una sezione specializzata della medesima, a cui si aggiunge un magistrato della Corte di Cassazione nominato dal Presidente, cioè scelto dal Presidente della Corte di Cassazione, e di un magistrato del Consiglio di Stato scelto dal Presidente del Consiglio di Stato. Quindi le scelte di questi magistrati non hanno niente, è solo l'atto formale di nomina che dei Presidenti delle Camere, ma la scelta e del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente della Corte di Cassazione e del Presidente del Consiglio di Stato. E i controlli che vengono previsti sono controlli molto seri e molto rigorosi, riguardano non solo la spesa ma anche l'entrata, tutte, anche le singole voci di entrata. Non ci potrà essere più un solo contributo anonimo, perché quelli sopra i 5.000 euro andranno dichiarati con dichiarazione congiunta presso le Camere. Non più un limite di 50.000 euro, ma solo basta superare i 5.000 euro per richiedere l'obbligo di dichiarazione pubblica congiunta alla Camera. Ma anche quelli sotto i 5.000 euro non potranno essere anonimi, e i magistrati potranno andare a vedere tutti i titoli di entrata anche di un bollettino di conto corrente postale di 10 euro. Quindi, e sono controlli che vengono fatti sulla base di un modello di bilancio che prevede conto economico e stato patrimoniale. Qui io, se ci fosse tempo, potrei ricordare cosa avveniva invece negli anni 70, dove il modello di bilancio veniva demandato al Presidente della Camera, che allora era Nilde Deiotti, e che prevedeva un semplice rendiconto di cassa, e richiesta dai radicali del motivo di questa scelta, il Presidente della Camera disse allora che quella scelta del semplice rendiconto di cassa era fatto per non mettere in imbarazzo i partiti politici, parole testuali. Ecco, qui si tratta invece di un conto economico e di uno stato patrimoniale che ha tutte le specifiche voci di spesa, per cui non potranno essere allocati in voci di bilancio ben precise e previste dalla legge, spese che non hanno alcuna attinenza con gli scopi per cui svolgono attività politiche i partiti. Quindi il sistema prevede poi un regime di sanzioni estremamente rigoroso e puntuale, ben graduato, che va dai casi di maggiore irregolarità alla decurtazione dell'intero rimborso, fino a, invece, a sanzioni commisurate all'entità delle irregolarità nei casi via via meno gravi o più leggeri, comunque con sanzioni specifiche ben graduate a riguardo. Quindi è un sistema di controlli. Poi, per carità, se c'è un ladro non è che aspetti, qui il problema non è quello di dire se c'è un ladro, perdone, perché qui non è questione, cioè i casi Lusi e i casi Belsito, ma la vita quotidiana dei partiti e della pubblica amministrazione, perché i partiti non ne rispettano l'autonomia, come sappiamo perfettamente nella storia della Repubblica, è tutto sotto i nostri occhi, hanno una pervasività di fronte alla quale non è che c'è lo scandalo, che c'è il ladro, qui c'è un sistema orientato alla pervasività discrezionale, ed è un sistema di fronte al quale ovviamente il cittadino, di fronte all'esplodere di vicenda inqualificabile, siamo proprio alla vergogna, altro che dover difendere i partiti dalle improprie ingerenze esterne, Calderisi, su, qui siamo alla vergogna. E allora a un certo punto, dopo che per mesi e mesi ci si macina la vergogna, e siccome in Italia quando si toccano materie come queste, poi per tantissimi anni, tranne che aumentare i contributi, quello si fa di anno in anno, ma l'impianto di, diciamo così, di una questione come questa si tocca ogni tanti anni, uno spera di vedere l'Italia porsi un problema di fondo. Cioè, ci poniamo il problema di fondo di voler imboccare una strada nella quale il contributo praticamente è solo quello istituzionale ai gruppi, non c'è ai partiti, e per il resto ci si dice fatevela con i privati, l'autofinanziamento, però in quel caso la politica sceglie di indurre i privati a farlo con un defalcamento, un incentivo fiscale molto più elevato, in linea col fatto che un incentivo fiscale molto più elevato non solo alla politica ma a tutto il terzo settore, all'autonomia dei corpi intermedi della società, eccetera eccetera. C'è questo in questo disegno di legge? No, perché l'indirizzo della politica è che naturalmente lo Stato non può rinunciare a gettito fiscale se non in una misura poco più che simbolica e che si copre di anno in anno. Quindi quando lei ci dice si prendano i privati e finanzino, in realtà sa perfettamente meglio di me che siccome la scelta di fondo della politica italiana è quella di non incoraggiare sussidiarietà del terzo settore, questo è un lip service, è una cosa che lei ci dice ma non corrisponde a quello che avverrà. I privati non finanziano, cioè, semplicemente perché non sono molto incentivati a farle, tranne che per sostenere gli amici in politica. Allora, oppure l'altra impostazione è quella di dire i partiti hanno un ruolo fondamentale per contribuire alla partecipazione trasparente e democratica dei cittadini della formazione dell'indirizzo politico della nazione, secondo la Costituzione? Sì. Bene, allora il più dei servizi che servono per garantire loro l'espletamento del compito costituzionale glieli si può dare pubblicamente, ma gli si dà i servizi, non si dà i soldi. E questa potrebbe essere un'altra strada, e questa, devo dire la verità, lei non ci può dire che è il finanziamento alla tedesca. Il finanziamento che passa attraverso le fondazioni dei partiti nella Germania, che conosco benissimo, è enormemente prescrittivo su quello che le fondazioni, i partiti possono fare e non possono fare. Io in questo testo che ho visto, di cui stiamo parlando, quella prescrittività non la vedo proprio, tranne il fatto che poi ciascuno è libero ovviamente di pensarla come vuole. E mentre ripartono i Doors, sentiamo qualche commento di ascoltatore. Cominciamo con Piero, che ci chiama dalla provincia di Siena. Piero, che idea si è fatto? Qual è la sua opinione? Buongiorno, grazie. Sottoscrivo tutto quello che ha detto lei, ovviamente, e ho assistito alla penosa scalata degli specchi dell'ultimo onorevole che ha parlato. Mi sembrava di sentire quando dovevano abolire le regioni, quando dovevano abolire le province, quando dovevano abolire qui, abolire là, la casta, e poi si riduce sempre alla solita presa per fondelli di tutti quanti noi, che effettivamente però non ne possiamo veramente più. Quindi diciamo Piero è molto scettico sulla versione Calderisi favorevole al testo di legge. Sentiamo Enrico che ci chiama da Varese. Prego Enrico. Buongiorno a tutti, grazie Oscar, sei un grande e basta. Allora, io volevo solamente dire che in Italia manca una cosa, il referendum propositivo. Noi abbiamo solo l'abrogativo. Col propositivo, se il popolo dice, come avviene in Svizzera, l'80% delle persone è a casa. Non vogliamo più il finanziamento ai partiti? Basta finanziamento ai partiti. Finché non avremo questo, il popolo non conterà mai niente e faranno quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Vabbè, abolliamo le province? Sì, le abolliamo, poi non fanno un cazzo. Enrico, ma è chiarissimo quello che hai detto. Ma io, come, basta, è ovvio che aprendo il microfono succede questo, Calderisi, e lei lo sa benissimo. Non penserà mica che ovviamente mi metto io a organizzarlo. Io, tra l'altro, nella mia vita ho promosso anche il primo referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti, quello del 78, perché la mia storia è di storia radicale, e fui anzi responsabile del comitato promotore nazionale di quei referendum, quindi ho descritto qualcosa, diciamo, di quello che avveniva in quegli anni. Questa riforma certamente è una riforma rispetto alla situazione precedente. Abbiamo dimezzato i contributi, non è che uno scherzo, solitamente si aumentavano sempre di più, li abbiamo dimezzati, abbiamo messo un sistema di controlli molto efficace. poi che si possa fare però, Calderisi, molto di più no, ma, non c'è ombra di dubbio, no, ma io siccome ho chiamato lei perché ho chiamato lei perché la conosco da decenni e personalmente non è che posso avere dubbi, cioè lei non è che da come era ha improvvisamente incontrato Satana ed è diventato la negazione di quello che pensava. Per questo mi rivolgo a lei dicendo che lei è chiaro, siccome gli italiani ormai i conti li fanno, no? Quando vedono che a essere rendicontato sul totale dei rimborsi da 94 oggi poco più di un quarto, se la politica gli dice ma noi ce li dimezziamo, gli italiani capiscono e dice sì, ma c'è un'altra metà che vi resta di quella che non avete rendicontato. Cioè è elementare che è così, no? Calderisi, non si tratta di avercela con lei, con la convergenza PD-PDL dei vertici dei partiti che rispetto alle proposte depositate stringendo tentano di portare a casa comunque una cosa. Le chiedo solo, lei è consapevole del fatto che così con questa proposta non si dà una risposta alla rilegittimazione, sì o no? Oppure mi sbaglio secondo lei? Ma non basta questa riforma, questo non c'è ombra di dubbio, non è che attraverso questa riforma si possa superare tutta una serie di questioni. E per la rilegittimazione il sistema politico deve fare molti altri passi avanti. Ok, questa è una risposta chiara, non ci faccio l'elenco, una risposta chiara, quindi no. Salvatore Vassallo, voterà no? Quanti sarete a votare no del vostro partito? Ma dunque, io ho già deciso di non votare alla Camera, poi andrà al Senato. Vorrei solo dire due cose se ho un rapido minuto. No, minuto no, pochi secondi, prego. No, la Corte dei Conti controlla anche cose fuori dalla pubblica amministrazione. Non è vero che controlla solo la Corte, solo la pubblica amministrazione. Quelli che dovrebbero nominare questa commissione, cioè il presidente. Radio 24. La passione si sente.